ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Recovery Fund, proposta da 390 miliardi di aiuti. Paesi frugali aprono consiglio convocato per oggi alle 16. Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo in un giorno, più 260.000, dice l'OMS. Turchia, Erdogan, un nostro sogno, riaprire Santa Sofia, venerdì riparte la preghiera islamica, i simboli cristiani saranno coperti. Vaticano, novità in arrivo, in assenza di sacerdoti, via a battesimi, funerali e matrimoni celebrati dai laici. Buongiorno Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Dunque, come avete sentito dai titoli, riprenderanno oggi alle 16 i lavori del Consiglio europeo sul Recovery Fund dopo il nulla di fatto ieri nella terza giornata di vertice a Bruxelles. Alla ripresa, a quanto si apprende, il Presidente del Consiglio europeo Michel dovrebbe proporre una nuova soluzione con una riduzione dei sussidi da 400 a 390 miliardi e anche sull'altro piatto della bilancia uno sconto inferiore nei contributi ai bilanci per i paesi che ne hanno diritto. Sentiamo. Alle 6 del mattino, dopo 3 giorni di trattative, il Presidente del Consiglio europeo Michel tira fuori dal cilindro una nuova proposta per trovare l'accordo a Bruxelles. 390 o 400 miliardi di sussidi, a seconda che siano più o meno ampi, gli sconti al contributo nazionale di cui beneficiano i cosiddetti frugali. Molto meno rispetto ai 500 miliardi originariamente proposti dalla Commissione, ma comunque vicini ai 400 miliardi che erano stati fissati come linea rossa da Germania, Francia, Italia e Spagna. Il vertice è riconvocato alle 16. Il rinvio, secondo fonti italiane, è il segnale che si stanno facendo passi in avanti. In che direzione bisognerà capirlo? Perché in questo momento esultano anche i cosiddetti frugali. Il presidente austriaco Sebastian Kurz parla di ottimo risultato per la riduzione dell'importo totale. Ottima bozza, secondo l'olandese Mark Rutte, che nega spaccature sul fronte di cui fa parte e approva per la bozza il superfreno di emergenza, il meccanismo che permetterebbe a qualsiasi paese di rallentare l'erogazione dei fondi, sollevando un'obiezione al Consiglio europeo o all'Ecofin. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno, l'attesa dunque per questa decisione del Consiglio europeo. Per quanto riguarda invece l'andamento della pandemia di coronavirus, resta alto il numero di contagi nel mondo, un record in 24 ore, 260.000 secondo l'OMS. In Italia invece ieri è stato raggiunto il livello più basso da febbraio. Il pericolo ora arriva soprattutto dall'estero e finché resta ampia la diffusione del virus al di fuori dei confini è elevato anche il rischio di ripresa del contagio. Arriva dagli economisti di Banca Italia l'ultimo monito davanti al quadro di un'epidemia che nel mondo ha la sua accelerazione con Stati Uniti, Brasile ed India in testa, mentre in Italia è sotto controllo anche se da giorni i nuovi positivi restano al di sopra dei 200. Così a preoccupare sono in prevalenza i contagi di importazione. Da più parti si sollecitano più controlli negli aeroporti e più tracciamenti, oltre all'obbligo di quarantena per chi arriva da fuori l'area Schengen. Il governatore della Toscana chiede al governo i dati di chi atterra in altri scali, dopo che più della metà dei nuovi casi sono stati registrati tra albanesi. Ma troppi restano anche gli assembramenti nei luoghi della movida e delle vacanze e il rischio, dice esplicitamente il consulente del Ministero della Salute, Ricciardi, è di fare la fine della Catalogna con nuove chiusure. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Restiamo all'estero, il Regno Unito sospende l'accordo di estradizione con Hong Kong, garantendo di fatto di non consegnare qualunque ricercato o fuggitivo in risposta alla nuova legge sulla sicurezza imposta dalla Cina nell'ex colonia e condannata come legge liberticida dagli Stati Uniti e anche dalla Gran Bretagna stessa. La ritorsione che era stata anticipata dai media è stata confermata poco fa dal premier britannico Boris Johnson prima di essere formalizzata alla Camera dei Comuni. E ora andiamo in Turchia con le parole del presidente Erdogan, che oggi ha confermato la riconversione da museo a moschea per Santa Sofia, l'ex cattedrale cristiana, poi moschea e dal 1935 museo e monumento simbolo di Istanbul. Era, ha detto Erdogan, il nostro sogno più grande di gioventù. Mancano pochi giorni alla preghiera islamica di inaugurazione in Santa Sofia. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan non ha esitato a sfruttare l'occasione con una visita a sorpresa dentro ormai l'ex museo, ma a favore di camera. Il capo di Stato ha voluto vedere come procedono i lavori in occasione dell'appuntamento di venerdì prossimo, quando l'edificio, nato come basilica bizantina, tornerà ufficialmente luogo di culto islamico, con una funzione alla quale parteciperanno 500 persone. L'attenzione però, più che da Erdogan, è stata attirata dai tappeti verdi che andranno a ricoprire i preziosi pavimenti millenari di Santa Sofia e dalle impalcature, alcune dovute anche a lavori di restauro dell'edificio, che renderanno poco visibili i suoi celebri mosaici, per i quali ha espresso preoccupazione tutta la comunità internazionale. Marta Ottaviani, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Continueranno anche oggi le prove, siamo tornati in Italia, le prove statiche sul nuovo ponte di Genova, prove che sono iniziate questa mattina con il transito di diversi tir lungo il nuovo viadotto sul Polcevera. L'inaugurazione, ha detto poco fa il commissario e sindaco di Genova Marco Bucci, avverrà tra il 1 e il 5 agosto. Sul nuovo ponte è la seconda giornata di collaudi. Sulla base dell'esito e dei tempi dei test di ieri, le operazioni procedono spedite al punto che per completarle potrebbero bastare 4 giorni anziché i 6 inizialmente previsti. Sugli svincoli di accesso di Levante, quelli di raccordo con l'A7, si utilizzano carrelli telecomandati. Sui 1067 metri del ponte invece vanno e vengono, tra frenate, soste e misurazioni, 56 tir carichi di ghiaia, significa un peso di 2500 tonnellate in movimento lungo la linea d'acciaio. Il 29 luglio il ponte sarà consegnato al gestore Autostrade per l'Italia, ci sarà tempo per le ultime verifiche di esercizio e quindi l'inaugurazione. Sarà nella prima decade di agosto, probabilmente il 7 o l'8. Intanto sulle autostrade liguri è iniziata un'altra giornata difficile per i lavori nelle gallerie, anche se non si registrano gli ingorghi dei giorni scorsi. Il graduale smantellamento dei cantieri dovrebbe concludersi entro la fine del mese. Per i danni subiti in seguito al caos autostradale, domani a Genova protesta delle categorie economiche e produttive in concomitanza con la visita della ministra delle infrastrutture De Micheli. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La cronaca, morti 2 operai precipitati in un cantiere edile a Roma. Si tratta di 2 italiani di 29 e 53 anni, ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Da una primissima ricostruzione sembra che stessero tagliando una trave quando sono caduti da un'altezza di oltre 20 metri. Una potentissima psicosetta con base operativa a Novara è stata scoperta al termine di una complessa indagine della questura di Novara, che nella notte ha eseguito numerose perquisizioni oltre che a Novara anche a Milano, Genova e Pavia. Oggi è il Tax Day, il giorno in cui vanno in scadenza tutta una serie di impegni fiscali per i contribuenti italiani. Proprio il mancato rinvio delle scadenze, secondo Confcommercio, rischia di mettere in ginocchio le imprese già fiaccate dalla crisi. Dopo le proteste dei commercialisti, anche Confcommercio lancia l'allarme sul Tax Day, che da oggi a fine mese vede sommarsi molti adempimenti, alcuni già previsti, altri posticipati per l'emergenza Covid. Il mancato rinvio al 30 settembre delle scadenze fiscali rischia di mettere in ginocchio le imprese, avverte il presidente dell'Associazione dei Commercianti Sangalli. È un errore per 2 motivi. Peggiora la situazione del sistema imprenditoriale, già in grave difficoltà per la crisi, e alza il rischio chiusura delle imprese con un impatto negativo sui conti pubblici ben maggiore rispetto a quello della proroga. A cavalcare la protesta sul Tax Day è anche il centrodestra che con Forza Italia invita alla disobbedienza fiscale. Il Tesoro respinge però le critiche. Con un rinvio a settembre si sarebbe rischiato un grande ingorgo fiscale, spiega il vice ministro all'economia Misiani, ospite di 24 Mattino. Ricordare che a settembre abbiamo rinviato i versamenti di marzo, aprile e maggio, ci sono tante scadenze, noi dobbiamo rimettere ordine, lo faremo con la riforma organica del fisco, perché bisogna superare una condizione in cui il saldo e il conto diventano il giudizio divino e un incubo per tanti contribuenti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Alcune novità annunciate nella Chiesa: no ai tariffari per le celebrazioni di messa, sì invece in casi eccezionali ai laici per celebrare matrimoni e funerali, lo stabilisce un nuovo documento del Vaticano. La messa e i sacramenti non possono comportare un prezzo da pagare, una tassa da esigere. Lo sottolinea il Vaticano in una istruzione in cui ridefinisce il ruolo e la configurazione delle parrocchie. No, dunque, a tariffari, anche se, precisa il documento, il parroco è tenuto a formare i fedeli affinché ogni membro della comunità si senta responsabilmente e direttamente coinvolto nel sostenere i bisogni della Chiesa attraverso diverse forme di aiuto e solidarietà. Dalla Santa Sede anche altre precisazioni. La carenza di sacerdoti potrà portare in via eccezionale a far celebrare anche ai laici. Il vescovo, si legge, a suo prudente giudizio, potrà affidare dunque ufficialmente alcuni incarichi a diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici sotto la guida e la responsabilità del parroco. Questo in occasione di battesimi, matrimoni e funerali. Non potranno invece in alcun caso tenere l'omelia durante la celebrazione della messa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo allo sport, iniziamo col calcio. Si chiude dopo lo stop dell'Inter ieri in casa della Roma, si chiude stasera con Juventus Lazio. Carlo Genta. Ciao Alessio, sì, una specie di match ball per la Juventus. Se stasera dovesse battere la Lazio, a quel punto il vantaggio sull'Inter sarebbe a più 8 e quasi decisivo, insomma, ben al di là dei numeri, con 4 partite ancora da giocare in campionato. Ieri sera 1-1 per l'Inter sulla Roma, una buona gara dell'Inter senza probabilmente quel furore che ti saresti aspettato su un'ultima spiaggia. Comunque 2-2 con rigore finale nettissimo trasformato da Lukaku. E questa sera vediamo se la Lazio riesce davvero ad aprire una crisi della Juventus, oppure se la Juventus stessa chiuderà il conto in vista delle coppe. Ci sono poi molti motori di cui parleremo, anzi invito gli ascoltatori ad intervenire su ogni tema 800 24 00 24, perché c'è anche un fronte arbitrale abbastanza caldo per quanto riguarda il gol segnato, il gol del pareggio segnato dalla Roma, viziato da un fallo non visto nemmeno attraverso il VAR. Ci sono anche molti motori con l'ennesima figuraccia da Ferrari con Hamilton che umilia gli avversari, e cose interessanti invece sulla prima del motomondiale con Marquez che si fa male. Domani verrà operato e sapremo quante gare perderà. Grazie Carlo, tutti i temi per il pomeriggio sportivo a partire dalle 14. Noi adesso facciamo il break, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi. Saremo in attesa della ripresa del Consiglio europeo di oggi pomeriggio e cercheremo di capire questo accordo che sembra delinearsi, un accordo importante. Chi vince, chi perde, come ogni volta in questo caso, cercheremo di capirlo con Alberto Rioli tra poco. Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. Effetto giorno. Queste le notizie. Recovery Fund, i paesi frugali aprono un accordo, piano da 390 miliardi, i lavori del Consiglio riprendono nel pomeriggio. Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo in un giorno, più 260.000, dice l'OMS. Vaticano, novità in arrivo, in assenza di sacerdoti, via battesimi, funerali e matrimoni celebrati dai laici. Minuti, cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno. E allora, come avete sentito dai titoli, c'è attesa perché nel pomeriggio alle 16 dovrebbe riaprire, è stato riconvocato il tavolo del Consiglio europeo. Il presidente Charles Michel, a quanto si apprende, dovrebbe arrivare con una nuova proposta formale che, insomma, gli spiragli delle ultime ore sembrano in qualche modo incoraggiare alla possibilità di un'intesa. Alberto Rioli, buongiorno, benvenuto Alberto. Buongiorno a tutti. Allora, quali sono i termini intanto di... anzi, prima ti chiedo se sei fiducioso, perché sembra nelle ultime ore che, nonostante il quarto giorno di vertice, si stia delineando un'intesa. Ci credi? Ma dovessi scommettere sì, direi di sì, semplicemente per il fatto che non conviene a nessuno non fare l'accordo e tutti hanno la percezione molto precisa che sarà un accordo di grande svolta per l'idea stessa della nuova Unione Europea. La forza e l'importanza della posta in gioco è il motivo per cui dobbiamo gestire questa fase negoziale anche con Toni Acuti, con un'intensa attività diplomatica, perché chiaramente mette in gioco gli interessi di tutti i partner dell'Unione Europea, ma la sta disegnando in un altro modo. Non dimentichiamo che è la prima volta che nel bilancio pluriennale dell'Unione ci sarà una forma di finanziamento comune, che è una forma di condivisione del debito, che era il grande tabù che evidentemente stiamo superando. Allora, per quanto riguarda i termini di questa intesa, quanto si sa, ci sarebbe un accordo sui 390, forse 400 miliardi di sussidi, meno di quanto chiesto nella proposta originale, iniziale, insomma, avanzata da Italia, Spagna, Francia, Germania, insomma, il nucleo che conosciamo. Dall'altra parte ci sono i paesi cosiddetti frugali. Forse non si sa ancora la cifra invece sull'altro aspetto, che è quello dei prestiti con un tasso però comunque conveniente, e anche questa è una cosa che interessa molto all'Italia, perché sembra più interessante anche politicamente rispetto al MES per il governo Conte. E poi c'è il meccanismo, Alberto, degli sconti, no? Si sta trattando su questi sconti. Sì, sono questi tre nodi finanziari, diciamo così, dell'accordo. Poi c'è anche altro, poi magari ne parleremo. E l'ultimo, il capitolo degli sconti, è un ricasco di Brexit sostanzialmente. La quota che prima metteva nel bilancio europeo la Gran Bretagna viene redistribuita. Nel momento in cui si redistribuiscono le quote, però sostanzialmente si è rimesso in gioco un po' il meccanismo delle compensazioni, appunto, degli sconti dei singoli paesi. Anche perché adesso l'Olanda, che era la seconda dopo la Gran Bretagna nel movimento un po' euroscettico, diciamo così, sì, adesso si trova a fare il front runner di questa nuova compagine e sta seguendo esattamente lo stesso tipo di attitudine negoziale e diplomatica che aveva la Gran Bretagna, e sta riproponendo esattamente quel tipo di atteggiamento anche nel momento in cui si sta ridefinendo il bilancio. Che partita di giro è questa dal punto di vista proprio, perché forse questo è l'aspetto, diciamo, meno noto, no? Meno conosciuto anche, diciamo, dai semplici cittadini, insomma. Che partita è questa di queste cifre sullo sconto dei contributi al bilancio? Sono partite importanti, perché stiamo parlando, il bilancio europeo per la verità ancora purtroppo non è granché, perché poco più dell'1% del PIL dell'Unione, però all'interno di questo, diciamo così, sul budget pluriennale che riguarda i 7 anni di gestione del bilancio, gli stati cercano chiaramente di abbattere le loro contribuzioni, chiaramente, e non sono comunque piccole cose. Per esempio pensiamo all'Italia, che è un contributore netto storicamente, noi versiamo più di quello che poi recuperiamo in termini di spesa dei fondi strutturali. Sono partite di svariate decine di miliardi, chiaramente. Adesso non ricordo bene la posta in gioco per l'Olanda, però Comunque sono cose importanti che nell'ambito della finanza pubblica poi dei vari paesi diventa rilevante. A maggior ragione diventa rilevante per un paese come l'Olanda, che è un paese piccolo, è poco più del, un po' meno del 6% del PIL europeo. Noi siamo il 13%, la Germania più del 20%. Siamo effettivamente ostaggio, certo, diciamo così, nel negoziato di una serie di nani da un punto di vista dell'economia dell'Unione. Dal punto di vista dell'Italia, anche dal punto di vista politico, se questi, diciamo che sono i termini che ci ha illustrato adesso, fossero in qualche modo confermati da un'intesa, sarebbe un risultato positivo, negativo? Quanto sarebbe anche un po' l'ammontare, no, dei finanzi, dei soldi che arriverebbero, per dirla in termini brutali, a Roma? Ma c'è una cifra che gira, insomma, intorno ai 70 miliardi, che è una cifra da linea rossa per il governo italiano, più o meno, insomma, e che è proprio il minimo, per la verità, sotto il quale non si potrebbe andare. Quando si pensava ai 750 miliardi iniziale, la cifra era anche molto più alta. Però in questo momento l'ammontare complessivo del fondo di cui si sta discutendo si sta assottigliando, e quindi non è il caso ancora di tirar fuori dei numeri, perché non ci sono. Siamo alla quinta bozza del presidente Charles Michel, quindi insomma ancora i dettagli sono prematuri. Però insomma le cifre sono queste, e non sono poca cosa comunque, perché si tratterebbe più o meno metà e metà tra sussidi e prestiti, e in ogni caso sono quote che devono servire per gli investimenti, per i grandi piani di rilancio dell'economia del nostro paese, su cui effettivamente siamo un po' carenti, a dire la verità, perché ancora progetti non ne vedo tanti. Un'ultima cosa riguarda anche, un ultimo nodo credo sul tavolo, no? I meccanismi di controllo della gestione di questi fondi, perché è un'altra cosa su cui si è discusso. L'Olanda, in qualche modo, se è vero quello che è trapelato sui media, pretendeva in qualche modo di controllare e di poter avere l'ultima parola su come l'Italia spenderà questi fondi. Sembra che ci sia invece un meccanismo in qualche modo che evita questa cosa, su cui Conte ha usato la parola dignità. Dice: l'Italia ha una dignità e non possiamo accettare questo. No, questo era giusto. È chiaro che come posizione d'ingresso negoziale da parte degli olandesi, quella era una furbata. All'inizio sarebbe stata semplicemente un modo per boicottare dopo quello che avresti eventualmente concordato adesso, prima, perché certo, mantenendo il diritto di veto era evidente che a ogni proposta che facevano gli italiani o i paesi dell'asse mediterranea si sarebbero trovati il muro del veto olandese o dei frugali, e quindi non si sarebbe andati avanti. Quello era un trucco, peraltro un trucco che dà un po' l'idea di quale sia la cultura, il tipo di Unione Europea che hanno questo tipo di paesi, che sono di retaggio di economia calvinista, mercantili, sostanzialmente utilizzano l'Europa come il mercato unico, un mercato efficiente su cui loro hanno posizioni di vantaggio competitivo strutturale, e vorrebbero che continuasse così. Invece in gioco c'è un altro tipo di Europa, e lo dicevi giustamente tu, sia nel meccanismo di governance, poi, che dà più peso all'Europa comunitaria e a nuova modalità di voto a maggioranza, e quindi togliendo i diritti di veto, sia dall'altra, in cui chiedono, per la verità, però in questo caso sono gli stessi olandesi a chiederlo, un allineamento sul cosiddetto Stato di diritto, cioè che mette in mezzo chiaramente i paesi di Visegrad e soprattutto l'Ungheria di Orban, che non è perfettamente allineata con gli standard dei diritti civili europei, diciamo. Il che in qualche modo allarga ancora di più questa partita. Grazie Alberto Rioli. Grazie a voi, buona giornata. Staremo a vedere, naturalmente. Il Consiglio europeo è riconvocato per le 16 di questo pomeriggio, poi non so se ci sarà ancora una lunga attesa, oppure se, come sembra filtrare, potrebbe esserci anche un annuncio, magari rapido, per questo accordo, che poi naturalmente dovrà superare anche il vaglio della Commissione, e insomma non è un accordo sicuramente definitivo. Adesso invece vogliamo aprire una finestra sui cambiamenti climatici e sulla situazione che riguarda un ghiacciaio, ma a dire la verità non soltanto il ghiacciaio del Rodano, che recentemente è stato parzialmente coperto con teli anti-scongelamento, anti-scioglimento. Ne parliamo con Wanda Bonardo, che è responsabile Alpi di Legambiente, ma anche presidente della sezione italiana del CIPRA, che è il Comitato Internazionale per la Protezione delle Alpi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Benvenuta. Allora, e grazie per aver accettato il nostro invito, Bonardo. Questa operazione di copertura con dei teli va avanti da qualche anno, non solo per il ghiacciaio del Rodano, anche per altri. Di che tipo di che operazione è, no? E quali sono anche i risultati di questo tipo di tentativi che vanno avanti da alcuni anni, però poi sappiamo che lo scioglimento non si ferma. Ma molto banalmente, diciamo, sia per il ghiacciaio del Rodano che per il ghiacciaio di Ponte Legno Tonale, si tratta di coprire con dei teli, ovviamente teli speciali, teli bianchi, che riflettono le radiazioni solari e di conseguenza si scalda di meno il ghiaccio del ghiacciaio e quindi si fonde più lentamente. Più lentamente. Perché si calcola che dal 1856 il ghiacciaio del Rodano in particolare si è assottigliato di 350 metri. Per lo scioglimento, diciamo anche proprio definitivo di questo ghiacciaio e di altri alpini, secondo alcuni esperti è solo una questione di tempo. È così? È solo una questione di tempo se sì. Non facciamo nulla? Sì, sì, sì, è così. E così si prevede che quasi tutti i ghiacciai delle nostre Alpi entro la fine di questo secolo scompariranno. Già adesso noi abbiamo assistito alla scomparsa di molti di questi. Penso ad esempio ai ghiacciai dell'Appennino, il ghiacciaio del Calderone è sparito un paio di anni fa, è stata decretata la sua morte in modo definitivo. Ecco, quindi, quali sarebbero le conseguenze, no, di questa situazione? Perché sappiamo che per invertire questa situazione bisognerà fare degli sforzi molto molto importanti che vanno al di là della copertura con questi teli, sforzi per, diciamo, invertire l'andamento delle emissioni, innanzitutto clima certo. Alteranti. Non possiamo di sicuro pensare di coprire tutti i ghiacciai con i teli e io già insomma ho dei forti dubbi anche rispetto a queste esperienze. Comunque le conseguenze saranno che noi perderemo un patrimonio enorme in termini di riserva idrica, perché non dimentichiamoci che noi abbiamo questa sorta di magazzino di acqua stoccato su per le montagne, questo sia a livello di ghiacciaio ma anche a livello di permafrost, a livello di acqua che penetra nel terreno e che gela. Quindi da un lato aumenteranno i problemi di riserva idrica, dall'altro perderemo tanta bellezza soprattutto, perché non dimentichiamoci il fascino straordinario che ha il ghiacciaio e sarà una perdita enorme e sarà piuttosto irreversibile, visto che la temperatura tende a crescere sempre di più e se noi non facciamo qualcosa non solo non riusciremo a fermare la scomparsa dei ghiacciai, ma avremo tutta una serie di altri problemi. La scomparsa dei ghiacciai è il caso più evidente e lo tocchiamo con mano, però avremo tutta una serie di altri grossi problemi che non tarderanno ad arrivare se noi non invertiamo questa tendenza a introdurre CO2 e tutto il resto in atmosfera e aumentare la temperatura. Bonardo, un'ultima cosa le voglio chiedere, anche se in pochi secondi, anche se naturalmente la domanda è complessa, ma insomma, come Comitato Internazionale per la Protezione delle Alpi, la vostra, diciamo, proposta, se potesse in qualche modo con un interruttore attivare una reazione da parte della collettività, di chi è in mano, dei decisori politici, insomma, cosa fareste? Da un lato, insomma, lo diciamo, uscire dalle fonti fossili e vabbè. Dall'altro, non di sicuro coprire coi teli, ma piuttosto cercare di approfittare, cogliere e fruire al meglio e al massimo dei ghiacciai finché ci sono. E poi soprattutto rispetto a quello che è l'uso che si sta facendo, perché ad esempio la copertura in Italia è solo per avere una pista da sci, non per conservare il ghiacciaio. Allora a questo punto bisognerà ragionare anche su un tipo di turismo diverso. Questo lo diciamo sia come Cipra che come Lega Ambiente, ad esempio con la campagna Neve di Ressa, lo diremo con la grande caravana dei ghiacciai che stiamo organizzando col Comitato Glaciologico Italiano che partirà a metà agosto, e quindi bisognerà pensare anche a una fruizione diversa della montagna che potrà indurre, produrre sviluppo e essere anche utile e piacevole, però bisognerà invertire la rotta. Grazie a Wanda Bonardo. Alle 13.30 noi facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco con le informazioni di borsa, poi lunedì c'è Effetto Mondo. Giulia Crivelli, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Recovery Fund verso un accordo, un piano da 390 miliardi, i lavori del Consiglio riprendono nel pomeriggio. Coronavirus, record di contagi al mondo, 260.000 in un giorno, dice l'OMS. Turchia, da venerdì a Santa Sofia torna la preghiera islamica, si avvera il nostro sogno, dice Erdogan. Calcio, dopo il pari dell'Inter in casa della Roma, stasera si chiude la 34esima con Juventus-Lazio. Minuti, cari ascoltatori, eccoci qua. Adesso è il momento, come annunciato, di aprire la nostra finestra sul mondo. Effetto Mondo con Giulia Crivelli. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.